L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Maiali che girano per la radio, quell'altro che si beve la pipì, questo che dice che suona meglio di Jimi Hendrix, cioè qui o sono matto io o siete tutti matti voi. Nonna, come siamo messi qua ormai? Qua è tutto degradato ormai, è perché sto invecchiando e qua è finita anche per me, è finita, divento vecchia. Tutto finito. Beh ragazzi, io vorrei iniziare oggi in modo assolutamente anomalo, caro Parenzo. Assolutamente buonasera anomalo. Non mi pronunciare buonasera! Non mi dire buonasera! Ascoltatori, radioascoltatori, roba d'anni messaggio, 50. Messaggio per la moglie di Andro Mercù. Suo marito è a Roma. Attenzione, pericolo. Passo. Non si è capito niente, scusa. Messaggio per la moglie di Andro Mercù. Suo marito è attualmente a Roma. Sa, ma... pericolo. Ma pericolo per chi? Per Andro, perché la moglie è da sola? Per chi? Non lo so. Non ma ragazzi, non ma so spiegatevi, dite le cose o non le spiegate. Scusa. Ma non lo so, c'è Andro Mercù che è a Roma. Ho avvisato la moglie, attenzione, pericolo. Ma pericolo di cosa? Amico mio, c'è il signor Siffredi anche a Roma, Ho capito, ma Siffredi non è che si fa Andro, ma ragazzi, cioè, ma inventatevele bene le cose invece, ma non ci invece di inventare cazzate. Andro ha cambiato idea, è passato dall'altra parte sostanzialmente, no? Come tu sai, voleva cagare, annunciarlo. Dai. Sì, omosessuale diventa. Allora, omosessuale. Voglio iniziare in maniera assolutamente anomala con la signora di ieri sera, grande chi protagonista è? Della zanzara, oh, la signora mia. Lisa da Lucca. Oh, la signora Lisa mia. Da Lucca. Sentite, mamma. Sentite, ci ha raccontato una storia incredibile, incredibile. Lisa da Lucca. Lisa da Lucca, vai. Sì, pronto. Dimmi Lisa, dimmi. Siccome c'ho un marito che è d'agosto che non mi consegna due soldi, no? Aspetta, questo è interessante. Dunque, è la gente che comincia a raccontare i cazzi propri di litigi. Questa è una trama, una roba molto interessante. È un segno di degrado. No, che degrado? Lisa, non ho capito. Che ti ha fatto tuo marito? Non ti dai i soldi? Che ha fatto? Che ha fatto? Ha fatto che... Che ha fatto? Che scemo in che senso? Tromba le altre? Sì. Ma questo è ancora suo marito oppure... È marito per la legge, però si è portato a casa un'egiziana che evidentemente pensa che sia sua moglie e non mantiene la moglie vera che sarei io. Che sarebbe lei, e non sì. Dispone da agosto, diciamo, di un centesimo e mi manda a fare che? E mi manda a quel paese e mi manda e vado, diciamo, da altri che sarebbero i parroci e ti danno magari 5 euro e 10 euro. Quanti anni ha tuo marito, scusami? 62. 62, quando è che ti ha lasciato? Sono 3 anni. Ma 3 anni che sta con l'egiziana? Evidentemente sì. Che ne so, evidentemente, lo sai tu, se non lo sai tu. Aspetta, ma che vuol dire, l'hai sorpreso proprio prima dentro? Prima la cubana. L'egiziana saranno 2 anni. L'egiziana 2 anni, prima con chi è stato? Con una cubana? Poi? Con una cubana, con la rumena, sì. Però fatti qualche domanda pure a cara amica Lisa, chiediti qualcosa. Che manca? Un'americana? Se l'è fatta pure un'americana? Tuo marito? Io sono andato con tante mignotte che non hai idea. Signora ecco. Mia, però adesso chi ci frega a noi? Ma sia gentile, ma la sua rabbia per chi si trasforma in rancore? Ma tanto rischierà anche la condanna, perché tanto prima o poi rischia anche una condanna. Ma per dai. Che cosa? Che ha fatto? È recitivo. Ma di che cosa? C'ha la manina un po' lunghina. Ma che fa? Il ladro? Donne, ladro? È un ladro? Diciamo in certo senso sì. Ma scusate, ma continua a trombare anche con altre tuo marito? Che so, io mando che lui va con tutte. Pure le mignotte, pure le mignotte. Sì, c'è una scorpana in casa, è brutta quel fastidio. E chi è sta scorpana? Vabbè, signora mia, però è l'egiziana. Ah, l'egiziana è una scorpana brutta. E dunque lui va anche con le mignotte perché quella là è scorpana, diciamo, quella con cui sta a casa. Ma lui c'ha un giro mio tanto dolce, dai. Ma di che? Che fa? Il ladro, il criminale, che fa? Beh sì, un po' di tutto e di più. Un po' di tutto. Mi hanno raccontato certe persone che entrano nei supermercati e ha portato via tazzine, bicchieri, carta igienica. Le storie di vita della Zanzara, pazzesco, caro padre. Le storie di vita della Zanzara hanno quasi un tocco pasoliniano. Sì, se però devo dire. Dire la verità. Allora, le persone sembrano matte. In realtà è un paese. No, non dire sembrano. No, io non mi arrabbio. Ti assicuro, non ti interrompo. Ma non dire sembrano. No, sembrano. Non dire questo. Devo dire sembrano questo. Perché invece raccontano pezzi di vita, pezzi di cuore, emozioni, eccetera, eccetera. Però il paese non è tanto normale. Leggo oggi su un quotidiano di Treviso. Ma visto che Pannella si è aggravato invece purtroppo. Pazienza. Adesso lui dice pazienza. Si è aggravato, va bene. La notizia di questo momento appena rilanciata, Pannella si aggrava. Siamo tutti vicini a Pannella. È andato in ospedale, lui dice pazienza e dà la parola a un trans. Capisco che a Pannella piacerebbe sicuramente questa modalità, esatto, su questo sono sicuro, esatto, di però, questo. Esatto. Che cosa però... dobbiamo fare? La cronaca delle ultime ore di Pannella? No, speriamo che non siano le ultime ore. Però un minimo, un aggiornamento, una cosa. Parenzo ci comunica, due punti, Pannella si è aggravato. Ed è ricoverato in ospedale. Va bene, d'accordo, Pannella si è aggravato. Però leggo oggi dalla tribuna di Treviso, da un quotidiano di Treviso, poi dice la gente non è normale, ma anche il mondo non va nella direzione giusta. Noi spendiamo dei soldi perché un signore, un veterinario, ha investito una nutria, una signora nutria, cioè non la signora Lisa, non tua figlia, non Parenzo, non mia figlia, eccetera, eccetera. Non ha investito bambini, donne, uomini, esseri umani, bensì una nutria, una nutria. E fin qui d'accordo, può succedere che uno investe una nutria, no? Io ho investito una rana l'altro giorno, ad esempio. Ecco, non l'hai portata a fare un attack, però. Ma che? Mi sono accorto dopo, ho visitato una rana, stavo in Toscana, stavo tornando un po' veloce, questa attraversa la strada. Può la succedere, può accadere. Ho capito che devo fare. Ho ucciso una rana. Questo capito, veterinario, ma... questo veterinario di San Donato, non so che paese è in Veneto, San Donato, certo. Sì, San Donato, beh, ci sono tanti San Donato in Italia in realtà. In comunque... Veneto c'è San Donato, dai, bene, d'accordo. Ha portato questa nutria a fare una. Ci sono anche le foto a fare un attacco, amico mio. Un attacco! Cioè, soldi nostri spesi per fare un attacco alla nutria. Uno dice: è normale, è stato mosso a pietà, si è impietosito. Tutti a dire: bene, per carità. A parte che le nutrie andrebbero ammazzate in default, così. Cioè andrebbero prese e ammazzate. La maggior parte delle nutrie va sterminata perché rompono i coglioni, rovinano i campi, eccetera. Sterminata adesso. Vanno sterminate le nutrie, ma è normale. Cioè, non mi pare di dire una cosa strana. Le nutrie vanno sterminate. Bisogna ammazzare più nutrie possibile. Questo addirittura l'ha messa sotto con la macchina. Mettila sul ciglio della strada, lasciala lì. Se proprio non vuoi fare così, che cosa fai? Chiami, che ne so, la nettezza urbana, chiunque per rimuovere il cadavere della nutria. No. O comunque per prendere l'utria l'ha portata a fare un attacco perché questa era ancora, capito, era infibili. Cosa fa l'attacco alla nutria? Dai su ragazzi, ma non è possibile. Io voglio capire l'ospedale che ci ha fatto spendere dei quattrini per fare l'attacco alla nutria, e soprattutto quando è arrivato lì che cosa è successo concretamente. Allora, c'è da dire qualche altra cosa sulla Chiesa Cattolica, come al solito. Dopo Bagnasco, anche Ruini, signor Ruini, dice che la legge sulle unioni gay... Io pensavo fosse morto Ruini, ti giuro, ma non lo dico con... ma non lo dico con odio. No. Cioè, io pensavo fosse morto, invece ogni tanto rispunta Ruini. Va ma bene, no, perché ma non gli auguro la morte. Ho detto che non gli auguro la morte al signor Ruini. Non gli sto augurando la morte. Pensavo... Ma cosa pensi? Ma poi la cosa incredibile? Che pensieri sono? No, ho detto, ma è vivo o non è vivo? No, invece ho capito che è vivo dalle cose che ha detto. Certo che è vivo, però, amico mio, ti dico un'altra cosa. Perché i cardinali vivono tantissimo? Ti sei mai chiesta questa cosa? Cioè io spesso leggo perché? i cardinali no? Vivono sempre tantissimo. Ma perché non devono vivere poco? È vero che essendo cardinali hanno anche una loro età, però questa è una cosa abbastanza strana. Vivono cioè... tanto perché avendo la rettitudine della fede la loro vita non è mal vissuta come la tua, che questo non ti lavi, che allora, fai... signor Ruini, qui mi incazzo, però signor Ruini ha detto sulle unioni gay che è uno stravolgimento biologico, psicologico ed etico. un problema per l'umanità. Adesso, amico mio, qui non si è cambiata l'umanità. Questa è la legge Cirinna. In Messico cambiano la Costituzione. Cioè il presidente messicano ha detto che cambieranno la Costituzione. Il Messico cattolico, sto dicendo. Il Messico dove ogni volta che va il Papa ci sono... no, orde di persone che vanno lì ad accogliere il Papa, eppure cambiano la Costituzione. Non è successo nulla, la famiglia non morirà, i matrimoni se calano non è perché si sposano i froci, oppure ci sarà forse l'adozione, ma calerà perché la gente non ha più voglia dei contratti, non ha più voglia dei vincoli, non ha più voglia di rottura di coglioni, ci sono rapporti più liquidi. Non è che la famiglia muore per colpa dei froci o del matrimonio gay, amico mio Ruini. Non è così, non c'è nessuna catastrofe, non c'è nessuno stravolgimento biologico, non c'è nessun problema per l'umanità. Sentiamo Mentana, dai. Pronunciate anche ai tempi della legge sul divorzio e poi del referendum fallito sulla sua abrogazione negli anni 70. Non c'è stata la fine della famiglia, non c'è stata una involuzione della nostra società, non c'è stato perché il divorzio è pratica corrente anche in tanti altri paesi, non c'è stato perché le unioni civili, non ci sarà perché le unioni civili sono già state sancite in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea e la famiglia non è stata distrutta da questo. Ma la Chiesa ha tutto il diritto di far sentire la sua voce, libera Chiesa, in libero Stato. Quando sento il traffico divento pazzo! La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Leggo cose incredibili, Parenzo. Aspetta un secondo, te l'ho detto perché la mia mamma mi ha scritto e mi segnala questo. Proprio ha scritto adesso in diretta. Sì, mi dice: oggi si può fare la guerra alle nutrie in Veneto. Sì, lo so. È diventata legge, no, sono stati stanziati 250.000 euro per le carcasse. Sì. Via libera della Regione Veneto, si possono usare armi da sparo, trappole, ma non archi e frecce, segnala la mia mamma. Sì, qualche giorno fa è una notizia, comunque. Quindi la guerra alle nutrie si fa legge, ora si può anche sparare. Fa bene tua madre a segnalare questa notizia. Detto, scusa, ascolta, vecchia, detto, di qualche giorno fa benissimo, l'abbraccio fortissimo. Mica fa la giornalista. Non è aggiornata, sì, ma no, ma perché? Ha fatto poveraccia, tu? Ma come poveraccia? No, tu mica ho detto poveraccia, assolutamente, no, ma sei tu che hai detto poveraccia, io no. Ha detto, in diretta, mi ha mandato anche... In Veneto si può tranquillamente sparare con certi limiti a una nutria. Questo mi ha segnalato. Però c'è una cosa da dire su Grillo, però Veneto. Mi sembra, no? Perché che cosa è successo con Grillo? Che praticamente ha detto che bisognerebbe creare una specie di software per cacciare automaticamente. Normale. Automaticamente i dissidenti, non capisco come dovrebbe funzionare questa cosa qua. È evidente, ma porca puttana, ma lo fanno dappertutto. No, vabbè, è un software, cazzo. Ma no, ma non è possibile. L'ha inventato la Casa Leggio Associati, ma di che parliamo? Cioè, non ho capito, in automatico si stai zitto, porca puttana, non è... ma ancora non hai capito come funziona il 5 Stelle, ma dai. Allora, è un software normalissimo che si mette in ogni, si trova in ogni computer. Ma non si trovi trovare, in ogni computer. Lo compri dalla Casa Leggio, costa soltanto 250.000 euro. È una cosa semplicissima. Okay. È un piccolo softwareino, 250.000 dovrebbe esserci. Dappertutto dovrebbe esserci questo softwareino. Come funziona? In automatico quando tu dici una cosa sbagliata? Zitto, ma sei morto, finito tu, la Confindustria, ma... l'Aquilotto, cosa c'entra l'Aquilotto? Questi qui che girano con l'Aquilotto della ancora con l'Aquilotto. Tu mi avevi chiamato per un'altra cosa, però non per l'Aquilotto della Confindustria. No, per la cosa. Praticamente con un click tu appena individui che uno è uno stronzo traditore, lo mandi via con un delete. Con un cancello. Ho capito, ma come si fa in automatico tutto questo? Ma in automatico lo faccio io da casa. Vedo quello capito, che fanno. Abbiamo capito. E a un certo punto, ad esempio, io dico: Mercù, deputato Mercù, mi hai rotto i coglioni, delete. Ma sparisce fisicamente. In automatico, dici. In automatico non lo vedi più. Morto, finito. Addirittura morto. In Germania, nel Bundestag, funziona così. Ma non è vero. La non Merkel l'ha fatto sparire Schläuble, lei come si chiama quel ministro? No, delle ma non è vero? Schläuble, come che nome ma è? Mi sembra che non funzioni. Però ti stai... Juncker, tutti i nomi del cazzo. Juncker, come si chiama? Malmström. Ma che cazzo di nome hanno in Europa? È morto Malmström. Vabbè, grazie di questa spiegazione. Si fa sparire con un delay, un tasto, cancelletto. Fabio da Vercelli, vai, cominciamo, Fabio, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dimmi, vai. Allora, io l'anno scorso ho investito un capriolo con la mia macchina. Sì, sì. E ma cosa ho fatto? Non una nutria, dunque, un capriolo. Beh, già quello è più triste, però. Sì. E allora? È più triste, però, mi è venuto addosso e ho fatto 3.000 euro di danno alla macchina. E vabbè, quello però succede, ma... amico mio. Beh, mica colpa del capriolo, però. Sì. No, assolutamente, infatti non do la colpa. Beh, al capriolo. Poi il capriolo, non so perché era così libero di... Il capriolo non è assicurato. Essendo nipote di cacciatori, sì, sono andato da mio nonno, sì, abbiamo preso il capriolo e ce lo siamo mangiati la domenica successiva. Cioè, hai investito, non l'hai portato... Era morto, però. Non è che era ancora in fin di vita. Non è che l'ho mangiato vivo. No, ho capito, però quando l'hai investito è morto subito sul colpo. È morto sul colpo, io sono tornato a casa col furgone che non andava l'hai più. L'hai messo dentro il furgone e te lo sei mangiato. E ce lo siamo puliti, ce lo siamo mangiati. C'è un cinismo in questo, però. Ma perché cinismo? Non ho capito. L'ha presa e si è mangiato il capriolo. Ma 3.000 no, euro. 3.000 euro. Amico mio, 3.000 euro dei danni, scusa. Cioè, almeno si è mangiato il capriolo. Vuoi non mangiarlo? Ma tu non ti sei incazzato con il proprietario di questo capriolo? Magari non esiste il proprietario di questo capriolo. Non esiste il proprietario di questo capriolo. Cioè era così vagante, un vagante, come si sì, dice, sì, per un minimo di tenerezza. Un minimo di tenerezza, mi dispiaceva, per carità, però. Però ha preso e se l'è mangiato. Poteva seppellirlo a quel punto, ma magari, no? Anziché mangiarselo. Ma tu renditi conto che se io chiamavo le autorità preposte era finita. Ha preferito mangiarselo con un cinismo estremo, una cattiveria disumana proprio, mostrando tutta la sua brutalità. Brutalità. No, lei è della Lega? No. No, perché dovrebbe essere della Lega? So, scusa, perché dovrebbe essere libero? No, io non sono della Lega, no. Ah, non d'accordo. Sono della ma perché dovrebbe essere della Lega? Chiedevo, sai, questa Mirko da Varese, ciao. Questo cinismo mi ricordava Varese, la Lega. Ciao, Mirko. Giuseppe. Dimmi, Mirko. Allora, volevo dirti che io sono un grandissimo appassionato di pezzi dell'epoca fascista. E vabbè, ma allora? No, niente, volevo dire che ha chi se ne frega? Quando hai fatto l'asta, quando ho fatto? Quando hai fatto l'asta, sulla statuetta di Hitler. Vabbè, allora? Esatto. Sono un grande appassionato. Fra poco sarà finito perché vogliono fare una legge che proibisce il commercio, dei pezzi, addirittura del fascismo. Una follia totale che vogliono fare al tuo amico Piano. Una follia. Ah, a proposito, Parenzo. Ma lei è proprio cultura. Io non so, io no. Io penso che uno possa collezionare quel che vuole, non me ne frega niente. Ma lei è proprio fascista? Beh sì, un po' fascistone lo sarà. Sotto certi aspetti sì, perché sotto certi aspetti. Cioè, da bambino è caduto dal seggiolone, cosa è successo? Cos'è che l'ha resa? Ci vorrebbe, Parenzo, guarda, io rispetto tutti. Ci vorrebbe magari è caduto dal seggiolone, è successo qualche cosa da bambino. In questo momento ci vorrebbe una bellissima dittatura. Una dittatura. Ci vorrebbe una bella dittatura. Cioè ci vorrebbe l'uomo forte. Ci vorrebbe un ospedale, una sezione dell'ospedale dedicato, secondo me, a lei. Va bene, non c'è nessun problema. Io rispetto gli di tutti, ma ci vorrebbe una bella dittatura. Cioè ci vorrebbe un Mussolini. Mussolini. Una bella pena di morte. Pena di morte, Mussolini, roba nuova. Pena di morte, Mussolini, poi? Sì, poi qualcos'altro? Gli immigrati si è dimenticato. Vogliamo cacciare gli ebrei? Vogliamo cacciare gli ebrei? Beh, adesso quello subito. No, io gli ebrei, per me gli ebrei non è un infatti io non ho detto. Però diciamo Mussolini, diciamo un nuovo Mussolini e la pena di morte subito, immediatamente. Un nuovo Mussolini più diciamo aggiornato. Facciamo Mussolini aggiornato. 2.0. Sì, vabbè, ma sempre Mussolini è però, Ah, volevo dire a Parenzo che il suo amico dentista che ha spesso citato qui alla Zanzara nei giorni scorsi, il dottore Abdallah Kabakeb, che ha scritto a proposito di Israele, è un errore storico, politico, una truffa. In caso di errore che crea danno, sai cosa si fa a casa mia? Control Alt Canc, cioè vuole praticamente cancellare Israele dalle mappe. Sì, ho letto questo è il tuo amico dentista, no, adesso questo Kabakebji, infatti... non so che cosa sia, siriano, musulmano, vuole cancellare Israele, distruggere Israele, rinnega l'amicizia, vergognati. Oh, ma non avete proprio un cazzo da fare, ragazzi. Ore di radio persi. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10:30 con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. La Zanzara. Cruciani, sono il tizio che ha come obiettivo nella vita fregare la moglie a Parenzo. Ti devo dare assolutamente un aggiornamento. Ieri Natania Zevi mi ha accettato l'amicizia su Facebook, amico mio! Siamo al top, eh? Adesso inizia il percorso. Parenzo trema! Io verificherei qualcosa, Davide. Cominciamo a mettere in ordine. Verificherei qualcosa. Questo criminale. Ma questo criminale ha chiesto l'amicizia. Questo criminale. Ma perché non criminale? Questo stronzo criminale. Non esistono altre parole. Verrà presto raggiunto da un avviso di garanzia, immagino. Ma quale avviso per di molestie, stai zitto, aggravate. E tu, napoletano, bariso, diffidati, Poli, quella infame che siede in regia, quell'altro stronzo diffidati? Di Buccero. Diffidati da cosa? Mercure qui, quindi non è crimine. Diffidati da cosa? Non ho capito. Vengono da adesso diffidati, chiamo l'avvocato. Vengono diffidati da mandare audio. Leo, quell'altro stronzo di Leo, Buccero, Poli, vengono diffidati, diffidati dal mandare in onda audio che contengano anche solo lontanamente la parola Natale, ma anche lontanamente, cioè neanche allusioni, neanche la compagna di una diffida partita immediatamente nei confronti di Valeria, la regista infame che si nasconde dietro quel vetro trasparente un cazzo là dietro. Come ti permetti tu, Buccero, che poi uno che si chiama Buccero con la I, Buccero dice sempre lui, maledetto. Vabbè, hai finito, Poli? Gentaglia, questa è gente, te lo dico io, guarda, se li becco te lo giuro, li porto in tribunale, ma ti rompo la testa, ma ti faccio un casino. Questa è una citazione, professor Antinori, se ti becco ti rompo la testa e faccio un casino. A proposito, vogliamo chiamare l'avvocato? No, manda quell'audito lì, manda quell'audito, sì, quello dovremmo sempre mandarlo, è riferito a voi quello. Però volevo ripeterti quello che ha detto Grillo sull'algoritmo, che è veramente una cosa incredibile. Si parla spesso in questi giorni della vicenda Pizzarotti, espulsione sì, espulsione no, eccetera eccetera, sulla questione di come c'è il ruolo di Grillo, che alla fine è quello, no? È Grillo che decide l'espulsione, diciamo la verità. Normale. Grillo oggi ha detto che cosa? No, ragazzi, ve la voglio leggere perché non è possibile che uno ha detto una cosa del genere, è impossibile. Serve un algoritmo. Se tradisci il programma viene espulso. Noi stiamo lavorando a un programma, io spero scherzasse perché era uno spettacolo a Napoli. Stiamo lavorando a un programma, il cosiddetto com'era? Blockchain, capito? Cioè le catene di blocco per l'informazione criptata. Hai un algoritmo e non ci sono intermediari, cioè senza intermediari, cioè non c'è scelta, dice lui. Se usato in politica potrebbe essere interessante. Se un parlamentare che ha votato una legge non segue il programma, viene automaticamente espulso. Cioè non bisogna fare nulla, cioè bisogna mettere dentro dei dati e poi l'algoritmo espulso, capito? Ragazzi, non è normale, dai, non è normale. È normalissimo, ovunque c'è, in tutte le democrazie del mondo. Ma non è vero, non c'è affatto. In Francia, Olanda, Merkel, normale. È un calcolatore, tu dici, verifichiamo un check continuo di quello che fai. Abbiamo visto che non lo fai un cazzo, delete, cancellato. Ma le cose che non hanno scritto i giornali è che proprio sparisci. Improvvisamente, come tocchi, non esiste più. La tua memoria, non esiste più neanche il tuo nome. Aspetta, fermo lì, Antonio, provincia di Forlì, vai Antonio. Ciao ragazzi, volevo intervenire sulla questione vaccinazioni. Io ho fatto l'avvocato, quindi mi permetto solo di dire una cosa. Aspetta Antonio, aspetta che voglio sentire un attimo il professore. Questione Antinori importante, guardi. Ma guardi. Tutto un casino. Uno che ha detto la Chiesa, l'ISIS e il mondo arabo vogliono infangare le mie tecniche di fecondazione assistita. La donna che mi accusa è un'emissaria di chi mi vuole morto. Allora, o è pazzo, oppure cosa possibile, naturalmente. Oppure una strategia difensiva, per questo chiediamo lumi. Vabbè. Che dicevi, Antonio? Volevo dirvi soltanto che in Italia ci sono già, sono state già pubblicate da tribunali italiani un po' di sentenze che palesano il legame tra vaccinazioni e autismo. No, ragazzi, però non mi parlate di questo. Queste cose qui vanno affidate alla scienza. Non mi, certo, sembra, non mi sembra che sia stato provato il legame tra l'autismo e i vaccini. Se lei sostiene questo, ha paura di questo, non faccia vaccinare i suoi figli se ha dei figli. Lei no, ha dei figli? Ma infatti mia figlia non è vaccinata. Tua, ma non è la questione non è... contro, vedi Giuseppe, non è. Se uno dice, cioè, tu credi veramente, che le vaccinazioni possano portare all'autismo? Allora, no Giuseppe, è da stupidi parlare in questa maniera, perché è da allora, in quale maniera bisogna parlare? Che le, è da stupidi dire che le vaccinazioni non servono, le vaccinazioni sono servite, sono e state allora? una benedizione. E invece? Oggi, sì? Oggi le vaccinazioni, visto quello che viene iniettato dentro e visto il modo con cui vengono fatte in Italia soltanto, perché nel resto d'Europa o non c'è l'obbligo o c'è un obbligo allora? Di un vaccino, ecco, allora bisogna dire che la vaccinazione va fatta in maniera tale da poter sapere se quel bambino ha bisogno della sì, però scusami Antonio, al di là di questo non vogliamo fare una cosa scientifica. Secondo te, c'è un legame tra, tra le vaccinazioni e l'autismo, sì o no? Sì, e non solo con l'autismo, e non lo dico io, e lo con dicono che cosa? Ma non lo dicono, sentenze. Ma che quali sentenze? Di quali? Quali sentenze? Di che parli? Cioè, ma di... non so, tribunale di Urbino, se ma vuoi te le mando. Domani ma tu, secondo te allora c'è una specie di, come dire, di spectre che occulta queste cose e fa in modo che non escano fuori, fa in modo che ancora... Considera che c'è un movimento di alcuni miliardi di euro che vanno nelle casse delle ma questo case si sa, si dice sempre, dai. Pediatri. Vabbè, sì, le case farmaceutiche hanno i brevetti per fare le medicine nel mondo normale. Però, funziona scusami, così, Antonio, eh? Antonio, allora, veramente tu pensi Manta. Che ci sia una specie di, come dire, di organizzazione? Ma no! Non so, che no. Impedisce a queste cose di venire fuori. Tu, no. Se sei così sicuro, significa che i vaccini sono un pericolo per la salute dei bambini, no, mi stai dicendo? Non è che tutti i vaccini sono pericolosi per tutti i bambini. Ti sto dicendo che alcune sentenze hanno fatto venire fuori che su alcuni bambini i vaccini hanno portato delle malattie, tant'è che c'è una legge in Italia che prevede il risarcimento in caso di morte di tuo figlio a seguito di vaccino. Ora spiegami perché uno Stato fa una legge del genere se questo rischio non c'è, e spiegami perché nella regione Veneto non sono più obbligati a vaccinare i figli, e spiegami perché in Austria, che è un passo da casa vostra lì a Milano, non c'è più l'obbligo di vaccinare. Ho capito, ciao Marco, provincia di Milano, vai Marco. Pronto? Dimmi, ragazzi, dimmi Marco, buongiorno. Dimmi. Vai. Buongiorno, buonasera. Allora, in riferimento al professor Antinori, la mia piccola esperienza che ho fatto col professore, in quanto da quel poco che ho potuto giudicare il professore, cioè tutto quello che sta passando mi dà l'impressione che sia esagerato. Ma adesso, voglio, che ne sa lei di queste accuse che gli fanno? Ci fanno delle accuse gravissime. Guarda, non ha letto le carte e dice che è esagerato. Io non vado sulle carte, vado su quello ma che tu, ma lei come lo conosce? Che ha fatto con Antinori, scusi lei? Io Antinori ho fatto un'inseminazione nel 2010. Cioè tu in che senso? Ha usato, la moglie avrà fatto lui. Immagino. Io e la moglie. Certo. Sì, tu ti ha fatto nascere un figlio Antinori? Praticamente non è andata a buon fine, purtroppo, però ho fatto comunque l'esperienza, ho provato. E allora? E da quello che ho visto, da quello che comunque Antinori possiede, non ha motivo di fare queste cose qua. Cioè, ma questo che cosa vuol dire? Cosa vuol dire non ha motivo? Cioè, non ha motivo, perché altrimenti o è andato fuori di testa che è diventato pazzo così improvvisamente, ma penso che se ne renderebbero conto tutti, il che non penso che sia così. Io l'ho visto. Vabbè, lei non ha le prove né da una parte né dall'altra. Bravo, ha conosciuto Antinori. Allora, che cazzo chiami a fare? Ho le prove, giusto, di quello che io ho visto con i miei occhi, e quindi mi faccio fede su quello che ho visto io e non su quello che dicono gli altri. Va bene, ciao amico mio. Maria da Brescia, vai. Maria. Volevo solo dire a quel personaggio non intelligente che ha investito un capriolo, che comunque se lo ha investito è perché andava veloce. Andava veloce, perché in montagna si va a un certo limite di velocità. Adesso lei non può sapere a quanto andava quello. Quello ha investito il capriolo e poi, siccome ha ricevuto dei danni, se l'è mangiato. Aspetta un attimo, ferma. Quando squilla il telefono. Quando squilla il telefono c'è sempre un'attesa, c'è sempre un'attesa quando squilla il telefono della Zanzara, eh? Vodafone. Fermi lì. E anche dalla Siberia ascoltiamo la zanzara. I dari Sibiri, ma slushim la zanzara. La zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want? Viva il magico mondo della zanzara, il mondo nel quale trans, puttane, fascisti, leghisti, comunisti, complottisti vanno tutti a braccetto e tutti possono dire la loro. È un mondo meraviglioso, che ne dica David Parenzo, che dice ah è un mondo così, che la gente fa pipì, scorreggia, fa quello, fa quell'altro, sì, no, ma Parenzo, ma datti una calmata, veramente. E poi la coda di paglia, sei proprio puritano, ma vergogna. Viva il magico mondo della zanzara. Che bella lezione di vita che ti danno queste persone, che bellissima lezione di vita che ti danno. Appunti, sto prendendo ti danno appunti. Delle lezioni di vita fantastiche. Sì, prendo guarda, appunti, fantastiche. Guarda, prendo appunti. Allora, vi devo far ascoltare alcune cose in serie. La prima è Salvini praticamente accolto con parolacce, manifestazioni, avvoltoio, insulti a un campo rom di Roma. Beh, a un strano, campo rom di Roma. Strano. C'erano lì i capi dei campi rom, poi è arrivata anche la Meloni, i capi, un capo e tutte le altre persone, moltissimi bambini che non vanno a scuola naturalmente, sono lì ai campi rom. Sentiamo qualche audio di questa gentile accoglienza. Che cosa devono dirgli? D'altra parte Salvini va lì. Prego Salvini viene dentro a vedere il campo, ma dopo tutto quello che dice, voglio... Non ho capito che cosa è giusto aggredire. No, Salvini, ma voglio dire, è giusto accoglierlo a... prego Salvini mangiare caffè con noi, vedere per lo a parte top, che c'erano due o tre persone rom. Che non c'entravano niente con i campi rom, erano come? Chiaramente persone dei centri sociali lì accanto, ecco. Magari no, ma sicuro no. No, ma li ho visti, ho visto i video. Comunque, se vai lì ti becchi qualche fischietto, perché insomma non sei stato gentile con i signori rom. L'uomo politico non deve vincere una campagna elettorale sulla pelle dei zingari. Questo significa che discriminazione. I signori rom. Beh, bellissimo. Come parlano straordinario. Quello sì, che esatto. Io poco fa. Ma d'altra parte tu sei il portavoce della comunità rom, Noi qua solo per mangiare, non abbiamo casa, no, solo vive, non ruba niente, cosa Salvino il cattivo può portare la ruspa. Ti devi solo vergognare, Salvini! Cioè, visto dal ti devi solo vergognare! Questo è come i cori da stadio che si diceva scemo, scemo, scemo. Vabbè, vabbè, comunque non è successo niente di grave. Ecco. Sì, insomma, non è successo niente di grave. Qualche fischietto, su. Avanti. Allora, c'è quest'idea di Alfano che è abbastanza leghista, che non è nuova in realtà, ma viene rilanciata oggi, che per i migranti ci vogliono gli hotspot galleggianti. Delle boe, praticamente. Cioè, dovrebbero rimanere in alcuni centri di accoglienza che non sono più sulla terraferma, ma a largo. Perché dice che saranno più sicuri. Ma sentiamo, però è interessante. Io avevo già annunciato al Consiglio dei Ministri dell'Interno a Lussemburgo la scorsa settimana di organizzare in mare con delle navi degli hotspot che siano lì a fare la funzione di hotspot galleggianti, e cioè di luoghi dove si prendono le impronte digitali e si separano i migranti irregolari da quelli che chiedono asilo e ne hanno diritto. Lo sai che non ho capito un cazzo di cosa potrebbe servire questa cosa qua? No, semplicemente fare delle barche, perché così delle barche galleggianti e poi già li smisti da altre parti, questo cioè invece di farli arrivare sulla terraferma. Esattamente, vabbè. Esattamente. Va. Adesso state attenti, c'è un video che è stato diffuso, credo, da Fanpage dell'amministratore delegato dell'Enel che si chiama Starace. Dici perché la Zanzara manda in onda questa roba qui? Sì, però è abbastanza interessante. No, però è abbastanza curiosa questa cosa qua. È un modo che dice Strace, che è il, ripeto, amministratore delegato dell'Enel, su come viene un po' riassunto in questo modo: bisogna ispirare paura nei dipendenti, distruggere fisicamente i centri di potere che si vuole cambiare, creare malessere all'interno di questi, colpire le persone opposte al cambiamento nella maniera più plateale possibile, sicché da ispirare paura. Capito? Beh, cioè, Starace, bisogna ispirare, diciamo, forse è un degno, no? Come Starace, no, quello... questo Starace, tu dici. Beh, come no, quello del fascismo. No, no, no, ma... non ho detto niente. Però senti questa roba, Starace, qua, senti. Però io di Starace ricordo quello lì, quello... Senti, è un discorso che ho fatto alla Luis, una lezione alla Luis, viene rilanciato da alcuni siti in questo modo, cioè frasi shock di Starace: bisogna ispirare paura nei dipendenti. Senti. Poi vanno, individuati i gangli di controllo dell'organizzazione che si vuole cambiare, e bisogna distruggere fisicamente questi centri di potere. Per farlo ci vogliono i cambiatori che vanno infilati lì dentro, dando ad essi una visibilità sproporzionata rispetto alla loro, al loro status aziendale, creando quindi malessere all'interno dell'organizzazione, del ganglio che si vuole distruggere. Appena questo malessere diventa sufficientemente manifesto, si colpiscono le persone opposte al cambiamento, e questa cosa va fatta in maniera la più plateale e possibilmente manifesta possibile, sicché da ispirare paura o esempi positivi nel resto dell'organizzazione. E dopo pochi mesi l'organizzazione capisce, perché alla gente non piace soffrire, e quando capiscono che la strada è un'altra, tutto sommato si convincono miracolosamente e vanno tutti lì. Strategie di terrore aziendale, diciamo. Oh, no? Sostanzialmente, buonasera, sono Mario Capanna. Mi sembra importante dire a questo punto che questo era il mio programma di qualche anno fa, fatto al contrario, i padroni lo hanno mutuato e preso. Cioè, sostanzialmente, io ebbi a dire in più occasioni, anche in questo straordinario consesso, fu Radio 24, ora Radio Mario Capanna, che per prendere possesso di una fabbrica bisogna assolutamente incutere paura e terrore. Perfetto, ci siamo, è esattamente quello che ho sempre sostenuto. Però i padroni... prendere le persone, cacciarle a calci nel culo, i manager, chiuderli dentro uno sgabuzzino per qualche giorno, senza luce, acqua, gas. A questo punto avremo il controllo totale delle maestranze e ovviamente degli oggetti di produzione, diventeremo produttori della fabbrica. Okay. Mi dispiace il fatto che tal Starace abbia preso alla lettera il mio manuale di guerriglia e applicato per i padroni. Quindi urge convegno di fabbrica che convocheremo a Radio 24, per cortesia, Piazza dell'Indipendenza. Grazie, aspettiamo. Ma che c'entra con l'Enel, tutte però, le compagne e i compagni. Cosa cazzo c'entra con l'Enel? L'Enel al massimo. Cioè. Bisogna organizzare comitati in tutte le fabbriche italiane, cominciare ad occupare ad esempio la fabbrica Bomba 6, l'hai mai sentita nominare la fabbrica? Sì, vagamente. Molto sì, bene, sì, vagamente. Ci stiamo già attrezzando per occupare anche quella fabbrica, partiremo da lì. Allora, eravamo con Maria da Brescia, sul capriolo se non sbaglio, no Maria? Esatto. Allora? Sì, però togli la voce, se no mi incazzo, dai. Puoi incazzarti finché vuoi, ma io ma che ne so, c'hai un auricolare, un via voce? No, allora parla bene, forte e chiaro. Abbiamo fatto la prova prima. Vabbè, allora dimmi, dai cara, dimmi. Stavo dicendo che comunque chi ha investito il cervio in montagna, in montagna si fa a una certa velocità. Vabbè, adesso tu scusa Maria, ma non sai un cazzo tu, ma che ne sai a quanto andava quello là? Magari andava a una velocità... Se dovessi sapere un cazzo, veramente, sinceramente. Possibile. Cioè... Ma non sai nulla, non sai a quanto andava quella, non sai a quanto andava. Ma è la normalità, e andava veloce, se l'ha ucciso, se no l'ha solo ferito. Vabbè, allora... Andava veloce. Andava veloce, dunque? Ecco, allora superava il limite. E allora? E sto dicendo che è stato un cretino. No, non adesso, poteva farvi il capriolo si è messo in mezzo alla strada. Il capriolo si è messo in mezzo alla strada, adesso la colpa è sua. La colpa è di non quello l'ho là. Non ho detto che il capriolo ha colpa. Su. No, il capriolo. Ho detto che ha colpa lui perché andava veloce e non possono andare veloce. Ma questi che chiamano per il capriolo, ma non hanno nulla da fare alle 19:43. Vabbè. Punto. Vabbè, ciao amica mia. Ucciso. Vabbè, ciao. Giovanni da Piacenza, dai Giovanni. Dimmi. No, sulla questione di mangiare cani e gatti, no? Fare allevamenti per mangiare un altro intellettuale. No, sarei d'accordo anch'io, però per lo stesso principio pretendo che si possa mangiare anche l'essere umano, perché già non è lo stesso cane... principio, c'è una differenza tra cani, gatti ed esseri umani, c'è una grande differenza tra cani, gatti ed esseri umani. Ci sono popolazioni, per esempio nel Borneo, che mangiano esseri umani legalmente. Vabbè, ma quello legalmente sono cazzi loro nel Borneo, a noi non ci interessa, noi non mangiamo gli esseri umani, ci mangiamo gli animali, per fortuna siamo ancora... Stato. Ma non lo so, saranno protetti dallo Stato, sono società cannibali che per fortuna sono molto limitate, sono nel Borneo. Scusa, allora anch'io voglio essere cannibale. Ma se tu vuoi essere cannibale vai contro le leggi, ma anche se... No, non vado contro le leggi, ma sai quanti detenuti negli Stati Uniti danno i loro organi? Ma cosa c'entra dare gli organi per farti di mangiare? Una gamba, se sono volontari, danno una gamba. Volontari? Dai, su, ragazzi, però non diciamo stronzate. Qual è il punto, Giovanni? Non ho capito qual è il punto. No, il punto che è una stronzata dire fare allevamenti in Italia dove si mangiano cani e gatti. Ma io ho detto un'altra cosa, ho detto siccome tutti gli animali per me sono uguali, sì, la formica come il cane, beh, come non il gatto, tutti dovrebbero essere uguali. Del paese, no? Allora, ho usato chiaramente un paradosso, naturalmente. Ho detto, sì, non ci vedrei nulla di strano, anche se non mi faccio promotore di un'iniziativa del genere, se come in altri paesi si potessero mangiare, naturalmente non presi per strada così, ma allevati cani e gatti, non ci vedrei nulla di particolarmente drammatico. Dopodiché la società è andata in un'altra direzione e chi se ne frega, non farò una campagna per mangiare cani e gatti, non ti preoccupare, ma con gli esseri umani non c'entra assolutamente nulla, nulla. Ma siete due somari, andate a casa, andate a lavorare, barboni. La Zanzara. Cruciani, sei un essere mitologico, col corpo di uomo e la testa di cazzo. E lasciala stare la vecchia. Allora andiamo a Brescia da Giampiero, vai. Ciao, ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Senti, allora, volevo fare prima di tutto un intervento, dato che ho sentito che parlavate di animali. E cose. Vai, dimmi, Giampiero, allora, dico quello che ti pare, dai. Ok, avevo sentito qualche giorno fa in podcast un intervento della Maugeri su suo video, che aveva tirato fuori Ovidio. Allora, c'è da dire che la poverina non sa effettivamente di cosa parla, perché non sapeva neanche dire il nome correttamente. E aveva detto 43 avanti Cristo, che lui era appena nato. Comunque, aveva detto una cosa giusta, ma non era riferita, ma se l'è strumentalizzata come voleva. Aveva detto che la crudeltà verso gli animali è indice della crudeltà, è un training per la cattiveria verso gli uomini, ma non intendeva per il cibo, intendeva chi maltratta animali. Sì, non ma lo intendeva, sappiamo, ne abbiamo già no, parlato. No, perché questo poi era rimasto un po' nell'aria. Però volevo dire un'altra cosa, che volevo passare all'argomento rom molto velocemente. Allora mi sono trovato, portare una testimonianza, me li sono trovati in casa una volta, io un pomeriggio arrivo a casa e che è successo bello in casa? Come il sole, arrivo in casa bello come il sole, sono tra l'altro mia moglie era fuori, sì, e dovevamo fare anche dei lavori in casa, per cui io mi sono trovato faccia a faccia con uno di questi, sì, e bello come il sole ho detto buongiorno, perché pensavo fosse un operaio, pensavo, e questi? È rimasto un po' interdetto, ha detto qualche parola in straniero, insomma, ed è venuto sull'altro e mi hanno puntato un cacciavite addosso. E poi? Io sono a quel punto, molto coraggiosamente, sono fuggito giù di sotto dalle scale, mi sono chiuso in garage, ho avuto la prontezza per chiudermi in garage, sono uscito dall'altra parte. Su, e che ne sai? Questo... Tua moglie che era rimasta dentro casa, che ne sai che non c'era tua moglie? No, non c'era, io non lo sapevo che fosse dentro, non ero sicuro che fosse dentro. Cioè, tu invece di cercare tua moglie, hai lasciato la moglie a casa. Invece di cercare tua moglie sei scappata, non ho capito. Ho fatto il giro, sei scappato come un coniglio. Sono scappato come uno che vuole sopravvivere, come perché morire lì davanti non è che sarebbe stato molto. Vabbè, allora dopo che succede, perché ci stai raccontando questa cosa? Non ho capito. Perché tutto ciò mi dava, quando si parla di integrazione, io sono perfettamente d'accordo. Però, sì, però amico mio, vai, riduci un po', riassumi un attimo, qual è la proposta? Ecco, appunto. La mia proposta è, facciamo una bella cosa, per parità, proprio per parità, per integrazione, sì, organizziamo delle giornate in cui andiamo a rapinare i campi rom. Ecco la stronzata delle 19:48. Ma perché io mi devo mettere allo stesso livello di un rom che ruba, andando a rubare nel campo rom? Scusami, spiegami. Ma perché forse è l'unico modo in cui capirebbero, in cui si capirebbe qualcosa. Cioè se ci fosse una specie di... stesso piano, insomma. Ma dai, su, a Giampiano, va, ciao. Allora, è con noi Nicola Porro. Buonasera. Grandi. Come stai? Come grandissimo. Stai? Come stai? Allora, hanno cancellato virus, no? Questo mi sembra. Su questo l'ho scritto sulla mia pagina Facebook. Oggi? Me l'hanno oggi? Detto. Sì, sulla mia pagina Facebook ho scritto. Stamattina sono stato dal direttore di rete che mi ha detto che è stato cancellato virus dai palinsesti per l'autunno, quindi c'è ancora due puntate. Non t'ha nemmeno chiamato signor Dal Campo e Dall'Orto? Quanti sono? Ho chiamato la sua segretaria 2 mesi fa, gli ho chiesto se potevo vederlo. Niente. Ancora sto aspettando. Hanno detto la classica frase: la richiameremo noi al più presto. Dice, no, ma ora la richiameremo noi al più presto. Non mi ha mai richiamato, quindi mi hanno detto: adesso c'ho 2 punti. E poi gli ho chiesto, perché poi avevo questa idea che loro mi hanno spiegato che io stavo al servizio pubblico e che quindi mi hanno spiegato questa cosa. Che per esempio adesso ci sono delle robe che forse non si conoscono bene, cioè che il. Ci sono delle elezioni amministrative a giugno, no? Sì, sembra, sì. Sì, mi dicono. E voi sapete quando finisce Virus? Quando? Il 26 maggio. Cioè, no. Fanno finire Virus prima delle elezioni amministrative. Sì, e poi c'è un'altra cosa, che il 23 per evitarti maggio... di commentare il sindaco. No, per... lo so, non penso, figurati. Il 23 giugno c'è un'altra cosa, che è un giovedì, che alle ore 11, esattamente quando io sono in sarei potuto essere in diretta, c'è una cosa che si chiama Brexit, cioè che l'Inghilterra vuole uscire dall'Unione Europea. Sì, ma non ho capito, era previsto che tu andassi in onda per tutto giugno? Pure. No, era previsto che io finissi il 26 maggio, ma non erano ancora stabilite le elezioni, ovviamente era previsto dal palinsesto dell'anno scorso. Io non ho capito, spiegami questa cosa qua, secondo te perché cancellano, cioè che motivazioni ti hanno dato della cancellazione di Virus? Nuovi linguaggi, vogliono sperimentare nuovi linguaggi televisivi. Cioè vogliono sostanzialmente eliminare alcuni talk? No, questo non me l'hanno detto. Voglio, sperimentare nuovi linguaggi. Nuovi linguaggi televisivi. Infatti penso che giovedì sera ci saranno questi film americani tipo NCIS. Ma perché lo sai o perché ma pagherai il canone con gioia? Hanno pagato in bolletta, quello non si può fare. In bolletta, non si può fare niente. Io voglio capire una cosa. Io sono l'unico che lo deve pagare il canone, cazzo, con tutti i soldi che mi hanno dato, non tanti, però me l'hanno dati, insomma, non io tanti. Non pago il canone. Mai troppi, bisogna sempre dire mai troppi. No, ma i soldi come sono benedetti anche se pochi, sempre. Perché sono stati pochi, guarda, guarda, veramente sparare stronzate sui soldi quando uno ha un lavoro è proprio, ma non lo dico moralisticamente, fantastico, però meno di quello che ti saresti la metà di quanto prendevo la 7, però questo non è importante, la io metà di quello che pigliava le 7, meno della metà ma chi se ne frega, cioè no, ragazzi, no, vabbè, non è un problema di soldi, cioè veramente no, scusa, ma cancellano un programma che mi sembra mi sembra che andava bene, no, adesso con quale criterio si può dire che andava bene, Nicola, scusami. Guarda, il criterio è molto semplice, se sugli ascolti, se uno vuole, perché no, poi la sì, certo, gli ascolti rispetto a cosa? All'anno precedente, rispetto a che cosa? Io ho sempre guadagnato più ascolti rispetto all'anno precedente, faccio 1 milione, scusate la noia, 1 milione quasi 100.000 persone, costo 45.000 euro a puntata, quindi la metà di tutti gli altri talk show, se non un terzo, e per farti un esempio, la settimana scorsa ho fatto 1.270.000 persone, tutti gli altri talk hanno fatto meno persone. Ecco, allora che cosa significa? Ci credi a quello che ti hanno detto sui nuovi linguaggi oppure è una scusa? Oppure se non è un provvedimento, diciamo, politico, no? Oppure è un programma che non mi sembra però anti-renziano. No, Renzi è andato da lui anche. Cioè Renzi non c'entra niente con questo provvedimento? Con guarda, questa decisione. Io non posso dirti una cosa, io no, non ne ho sinceramente. Te lo dico sinceramente, io non ne ho la più pallida idea, perché penso che sia adesso mi voglio fare stamattina mi hanno detto che mi hanno cancellato, datemi un po' di tempo per ragionarci sopra. Ma lo sai tu dentro di te qual è il motivo, dai, non ci dire stronzate. Mi sono, una cosa ve lo posso dire, che mi sono messaggiato a suo tempo con Renzi e lui mi ha detto non star sereno. No, ma veramente no? Ti giuro, non è una battuta. No, ma non è una battuta, cioè, tu ti sei messaggiato con Renzi e tu hai detto non star sereno per che cosa? No, perché lo volevo ospite da me. Però non stare sereno e quindi è andato, infatti. No, vabbè, adesso, adesso è una sfiga, perché non puoi neanche fidarti se ti dice stai sereno, cioè non riesco a capire se qual è al di là di questo, un ruolo di Renzi c'è o non c'è? Questo che voglio capire, cioè se da te c'è o non c'è? Giuseppe, non te lo so dire, non voglio fare il fenomeno, non te lo so dire, voglio capire cosa è successo veramente, perché non lo so. Poi datemi stamattina ho avuto ma tanto lo sapevi già. Sai, quando te la dicono una cosa è diversa, Freccero dice l'altro giorno ci ha detto a noi che il tuo studio faceva letteralmente schifo, cioè però qualche... tu sei grande Charmon, ha detto Charmon, sì, il tuo studio faceva... l'ho sentito, mitico Edoardo, perché dice che c'ho il colletto della camicia un po' così, sì però io voglio capire una cosa, che ti hanno proposto qualcos'altro oppure vai via dalla Rai, non ci metti più piede? No, mi stanno pensando di farmi fare qualcosa. Quando? Forse no, non lo so, poi sempre se mai qualche cosa pubblico. Il weekend, Sì, di weekend, ma ottobre-novembre. Ma non mi dire che accetti sta follia. Beh, perché no? Guarda, quando mi dicono esattamente che cosa deciderai. Vabbè, sì, un attimo solo, abbiamo la pubblicità, poi parliamo della storia dei vaccini, perché è stato messo in croce anche su questo negli ultimi giorni Porro, come sapete, perché ha invitato Red Ronnie al Brigliadori. Noi abbiamo difeso la libertà di invitare una persona, certo, a un talk show, e soprattutto la libertà di invitare chiunque, però c'è un sacco di gente che ci ha chiamato, medici, eccetera, dicendo una follia invitare a parlare Red Ronnie in una trasmissione del servizio pubblico di vaccini, una cosa delicatissima. Femmili. Marijuana e zanzara, marijuana e zanzara, viva la zanzara, ciao Crucians. La zanzara. Luciani, sono in banca, mi mangio le caccole da quando sono piccolo, ho sempre pensato che fossero salate al punto giusto. Non sono da solo. Allora, prima di tornare da Porro, Parenzo, io ti farei ascoltare la cosa incredibile del candidato sindaco dei 5 Stelle a Napoli, che si chiama Brambilla, come sai, ed è di origine chiaramente lombarda. Sì, chiaramente... il famoso Sur Brambilla di Napoli, famosissimo. Sì, perché ha sposato una napoletana, credo che sia un ingegnere, una cosa del genere, il quale è grande tifoso della Juventus. Questo io mi fa impazzire questa cosa qua, però non ha il coraggio di dirlo fino in fondo. Per forza, no. No, ma senti, c'è invece uno di dire, guarda, io so, vengo dal nord, mi sono sposato una napoletana, tifo Juventus, non c'è niente di male, no? Scelgono un'altra strada. Senti. Io tifo Napoli tranne due volte all'anno, in cui mi ritiro in conclave per vedere la mia squadra del cuore, la Juventus, senza neanche esultare per rispetto dei miei familiari. Mamma mia, quanta ipocrisia, quanta ipocrisia. Perché il calcio vuole più voti della politica. No, ma senti una cosa, senti. Io sto da Juventino, sono già andato a San Paolo pagando il biglietto e continuerò a farlo pagando il biglietto e non vicino a De Laurentiis per fare campagna elettorale come fanno gli altri. Lo farò da tifoso come fa. Però su Napoli c'è un'altra cosa molto grave, un'altra cosa molto grave che è stata detta in una trasmissione questa mattina, che si chiama Agorà, trasmissione dunque della Rai, della, sì, Rai. Come? La signora Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera, diciamo molto vicina a Renzi, comunque è una di quelle considerata vicina a Renzi, o comunque considerata una che ha simpatie per Renzi, ecco, diciamola tutta. Cioè, Maria Teresa, vabbè, così si sostiene, così si dice, così si sente, insomma, manifesta apprezzamenti nei confronti di Renzi, ma non c'è niente di strano, mica ho detto che è la figlia di Totò Riina, mica ho detto che è una criminale di guerra, ho detto semplicemente che esprime delle simpatie abbastanza evidenti per Renzi, non c'è niente di strano, poi farà benissimo il suo mestiere, eccetera. Senti però cosa ha detto su Napoli. Cosa ha detto su Napoli e Vesuvio? Si stava parlando di abusivismo, di ville costruite male, di ville costruite dove non bisogna costruirle, sì, eccetera eccetera. Senti cosa ha detto. Quelle case, scusami, fanno orrore perché sono state costruite là, cioè, quelle non fa case orrore fanno che si orrore, siano rese male, appunto. Come mi auguro che il Vesuvio si riprenda le case. Allora, Maria Teresa Meli, eccola qui del Corriere, scusate, della Sera. C'è la camorra in Campania, lo sappiamo tutti. Dopodiché ci dobbiamo domandare perché certe cose avvengono nell'Italia del Sud e perché in Lombardia i lombardi non si comportano così. Perché forse è anche colpa non solo dello Stato, ma di come si comportano gli italiani. Perché il Sud non va avanti finché attribuisce ogni colpa allo Stato. Se la prendessero anche i cittadini campani, che buttano l'immondizia dovunque, che buttano nel fiume, come raccontava Antonello, di tutto e di più, e che costruiscono sulla spiaggia. Giustamente il mare si riprende quelle case. Allora, la frase sotto accusa, le ultime cose secondo me vanno anche bene, sono perfette sulla cultura, certo, eccetera, certo, eccetera, il sud rispetto al nord, cose ma che noi diciamo da. Ma quella frase la disse Sgarbi, credo, 7-8 anni fa. Mi auguro che il Vesuvio si riprenda le case che i napoletani hanno messo lì, mi auguro che il Vesuvio, ora, siccome quando il Vesuvio si riprende le case significa che c'è la colata lavica, la colata lavica, cioè lei si augura che il Vesuvio spazzi via tutto l'abusivismo edilizio che è stato fatto sotto il Vesuvio, capito? Spero senza la gente dentro, eh. Sì, ma è una battuta, come dire, è una battuta. L'avessi fatta Salvini, l'avessi fatta io, ormai hai superato ogni limite, dai, e quindi su, ti è concesso, dai, tutto. Salvini la fa, l'ha già fatta. Chi è che mi chiama a quest'ora che non mi dovrebbe chiamare? Chi è che mi chiama a quest'ora? Chi è che mi chiama a quest'ora? Rispondi. È con noi Nicola Porro, ex conduttore di virus. Non tiragliela, conduttore di virus. Nicola? Domani ci sono, fatemi fare un po' di domani ci sei, tutti anche a vedere virus. Tutti a vedere virus per l'ultima puntata domani. Tutti. Anche se stasera c'è il talk di Renzi, il talk di Renzi, c'è questa sera perché lo fa da solo su Facebook. Magari qualcuno dei telespettatori e ascoltatori gli può chiedere quello che chiedevate voi a me, perché avete fatto fuori Porro? Ma scusa, che c'entra? Perché Renzi c'ha la longa manus, perché decide lui? No, però lui è quello che ha nominato e ha fatto la riforma per la quale... Ok, benissimo, ma secondo te Campo dall'Orto risponde a Renzi anche in queste cose? Cioè chiede consigli a Renzi prima di decidere? Questo non lo so, però è stato nominato da Renzi. Non lo sai. Babbo Natale. No, ma ho capito, allora tu dilla tutto. Secondo te Renzi decide anche i palinsesti della televisione pubblica? Mette bocca? Viene consultato? Io glielo vorrei chiedere. Da questo punto di vista è peggio di Berlusconi, secondo te? No, Berlusconi è il peggiore. No, ragazzi, ma non c'è dubbio. Cioè, Berlusconi, cazzo, mi avrebbe fatto cadere come un eroe. Cioè, se ci fosse stato Berlusconi, io sarei una porca puttana di eroe. Porro, l'editto contro Porro. Io invece sto morendo nell'indifferenza. Morendo. Come si chiama quell'altro? Biagi, Santoro. Non è che va in povertà, dai, su. No, ma mica parlavo di quello, ma che cazzo me ne frega dei soldi, non sto parlando di quello. L'informazione di virus è morta e l'hanno debellata. Sì, è vero, in altre epoche avrebbero fatto l'inferno, ma, è vero, sì. Almeno c'era Berlusconi. Ma secondo te hanno fatto un po' una compensazione via Ballarò, il conduttore di Ballarò, e via pure quello di virus? Tu dici centro-sinistra, allora, centro-destra. Su Ballarò io ho un'idea precisa, faranno una roba che si occuperà, senza ovviamente Giannini che è un professionista, se non si presterà a farlo, gli faranno parlare, non so, del cibo vegano e della regina Elisabetta che compie 94 anni. Farà una specie di magazine molto carino, elegante, di informazione generale. Vedrete, ci scommetto. Dici? Una cena. Senti, inviteresti di nuovo Red Ronnie alla Brigliadori? Sì. La Brigliadori era un servizio esterno, era lo rinviteresti di nuovo? Sì, certo, perché voglio affermare un principio. In queste ore sta morendo Pannella, in queste ore, non è che vi do una notizia, ma perché l'hanno ricoverato. Lo so, l'abbiamo detto. Lo so, scusatemi, io stavo a registrare. Vabbè, allora? Una roba che ci hanno insegnato a noi liberali, una roba, è che l'idea anche la più lontana da te, quella che ti fa più schifo, sì. Io sono assolutamente per i vaccini, l'obbligatorietà, tutto, sì, ma non me ne fotte nulla. La devi ospitare, porca sì, puttana. Però scusa Nicola, c'è un'altra questione. Ti dicono, tu nella televisione pubblica non puoi far parlare di vaccini. L'ha detto quel medico là, che ti ha definito anche un talebano. Pubblica. Tu hai definito un talebano, scusami. Il medico quello là che era ospite lì, che dice che non ha potuto parlare, che non sapeva che c'era Red Ronnie invitato, se no non ci sarebbe mai andato, perché non è di pari grado, eccetera, eccetera. Ecco, il principio è molto semplice. Secondo voi le idee più assurde arrivano dai premi Nobel, cioè che sono riconosciuti, o arrivano da persone che sono ai margini della comunità? Cioè, l'idea più assurda che vuol dire? L'idea più assurda? Più originale. Beh, è assurdo, più originale. Scusatemi. Ma no, ma io posso dirlo che è assurdo con voi il pensiero di uno che dice che i bambini non si devono vaccinare, se li facesse i vaccini è demenziale. Potrò dirlo ora che non sono i conduttori però di una trasmissione televisiva. Però tu dici, per me è una stronzata. Però lo voglio invitare perché in qualche modo interpreta una parte anche piccola dell'opinione pubblica, in questo modo, questo vuoi dire? Interpreta esattamente quella razza di persone, quella razza di persone che è malate mentali. Contro gli OGM, contro la chimica, contro la sofisticazione del mondo. Cioè, sono disturbati, sono un po' disturbati, secondo te. E quelle persone là stanno diffondendo l'idea che questo faccia male. E allora, se esiste De Niro, perché De Niro voi non l'avreste invitato, se invitano De Niro alla CNBC non gliene fotte un cazzo a nessuno. Se io invito invece Red Ronnie, mi dicono beh, Red Ronnie, ma questo è giusto, questo non è recita bene come De Niro. Ma perché De Niro che competenza c'ha? Ha fatto un film a Tribeca Festival, lo è stato invitato da tutti i grandi network americani, e io non posso invitare quello che rappresenta un mondo che io non condivido, ma pur non condividendolo lo devi invitare. Ragazzi, non si è mai parlato di vaccini, dell'assurdità di non far vaccinare i bambini come in questi giorni, chi ha parlato dei vaccini? No, ma sono d'accordo, guarda, al 100%. Oh, abbiamo ricevuto. Io rivendico questa cosa qua. No, ma io su questo sfondo una porta aperta. Non mi insulti per questo, ma la rivendico fino alla morte, tanto sono morto. No. Ciao, ciao Rick, ciao, ciao, ciao. Ciao, Rico. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La Zanzara sono le nostre 2 ore e mezzo di libertà quotidiane. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. Qual è quella cosa più furba, più riservata, più pulita, più nobile e più matematica? È sempre quella cosina lì. Perché? Più pulita, perché si scopa almeno una volta al giorno. Più nobile, riceve il marchese una volta al mese. Più furba, lascia i coglioni fuori. Più riservata, ne prende uno per volta. Più matematica, prende un membro, lo eleva alla massima potenza, lo racchiude fra parentesi, gli estrae la radice e lo riduce ai minimi termini. Ciao. Ma questo è un genio assoluto, un genio totale. Non metto in discussione questo. Un genio totale. Domando totale. Sommessamente, sì, ormai dimmi, senza dimmi. Risposta. Dimmi, dimmi. Perché li troviamo tutti noi? Ma no, cioè, ma è gente che si inventa delle cose. No, no, ma è... Sentiamo per esempio Matteo da Catania. Dopo sentiamo. Matteo da Catania, vai. Matteo? Sì, ciao Giuseppe, ciao. Dimmi, ciao, Matteo, caro. Dimmi, caro, dimmi. Allora, il mio intervento è tra il serio e il faceto. Allora, prima prendiamo... Tra il serio e il... Chi è che diceva così in un film? Tra il serio e il faceto? No, tra il serio... Sì, c'era un film dove c'era uno che utilizzava un'espressione del genere. Tra il serio e il faceto, tra il serio e il faceto. Vabbè, adesso me lo ricorderò, dai, Matteo. Sì, allora, ti dico. Tempo fa, qualche settimana fa, un vostro ascoltatore ha sollevato il problema quando la mattina uno si alza e chi ha, sì, diciamo, il glory morning... Cioè il peneretto. Il peneretto, sì, il glory morning è interessante. Adesso come espressione. Anche l'aneddotica sul passato, capito? Cioè non è che basta che uno... No, ma... Addirittura ricorda... No, ma il glory morning, l'espressione glory morning è molto bella. Comunque, la mattina uno... Diciamo, utilizziamo questa espressione, invece di avere, di dire il pisello... Ecco. Il più glory morning. Diciamo il più raffinata. E allora? No, io ho la soluzione perché dice è problematico. Ma non è problematico, ragazzi. Però non mi potete far credere che uno si alza la mattina. No, non parlate di queste... glory morning. Non parlate e di dunque queste cose. C'è un problema, diciamo, di... Non è che può durare 20 minuti di seguito questo glory morning. Ma no? Non parlate di queste cose. C'è una persona qui vicino a me, Mercu, che da tanti anni non ha più questa cosa. Da tanti anni non sa più neanche che cos'è quell'attrezzo. Mercu, ci rimane male, ce lo vedo dalla faccia. No, ma è vero. Adesso mi scusa, Matteo, se lo dico dimmi, così Matteo, in diretta. Matteo, dimmi. Quindi la soluzione è semplice. Sì. Ma a te succede spesso questa cosa? Fortunatamente sì, data anche la mia età, e non mi posso lamentare. Poi quello che ti... Va bene, questi poi diciamo sono fatti miei, che posso anche dire. Tu, sei tu che chiami, non è che so io. Cioè, sto dicendo, no, è un problema che è un problema che hai. Che problema? No, in realtà non è un ti problema. Dico come l'ho risolto? Come l'hai risolto? Dico. Avendo tu questo, non dico problema, ma questa abitudine di svegliarti con il glory morning, diciamo. Bravo. Spesso, quindi, credo abbastanza spesso. Vado ad urinare nel lavandino. Ecco, abbiamo capito, che no, una ma soluzione però, scusa, ma gente, ma adesso però non mi voglio arrabbiare, ma uno può chiamare la radio 24 del gruppo del Sole di 24 ore, ma io dico un'altra, anche la radio BB, non ma quella del Sole, Parenzo, e dire Parenzo. Che deve urinare nel lavandino alle 20:14, ma che dignità. Mi sembra però quest'uomo. Fondamentale, mi sembra fondamentale. Matteo ha detto che mi segnalano intanto che non è glory, ma è morning glory, come anche da famosa canzone degli Me l'ha scritto anche sì, vabbè, una persona, un amico nostro, non c'è bisogno di svelare tutte le persone che ci scrivono. Un'amica, cioè diciamo Natania, mi ha scritto, si dice morning glory, morning mannaggia. Glory, morning glory, non vabbè. Glory more, vabbè, ma è informata l'amica, vabbè, sì, beh, sarà adesso informata. Lei si faccia i cazzi suoi e non entri nel merito. Però... ripeto, poi a fianco a me c'è Andro Mercu, che di questa cosa qui non ha testimonianza da anni. No, ma adesso quindi perché, situazione... lo devi umiliare così? No, perché no, lo devi no. umiliare? Vive una situazione di veramente di un... disagio, mi ha detto prima, di no, disagio. Lo usa per pulirsi gli occhiali praticamente. Vabbè, quindi ragazzi, non... No, adesso poi sono io che accendo gli animi su questo argomento qua. Scusami. Poi l'ascoltatore che dice che fa la pipì nel lavandino, persino tu che sei quello che dovrebbe avere una plomba, eccetera, dici che quello usa l'uccello per pulirsi gli occhiali. No, non dai, ho detto che poverino vive una situazione drammatica. E viene utilizzato per pulire gli occhiali, perché è talmente ormai... Ed è drammatico per lui sentire che ci sono altre persone che hanno il cosiddetto... Vabbè, allora, Matteo, glory. Dunque, l'hai risolto facendo la pipì nel lavandino. Dunque... Tu. Marco da Cremona, vai, Marco da Cremona. Io voglio solo Marco da Milano. Marco Cremona, Marco vai. Da Cremona. Dopo dimmi. Aver ascoltato questo ultimo pezzo, sì. Volevo dire una cosa seria. Sì, e come lei è libero, essendo un giornalista, non solo comico, sì, ma non sono comico io, non sono di dire quello conduco, che vuole, conduco un programma di dire radio, quello, sì. Di dire quello che vuoi. Sì. Bagnasco e Ruini hanno il diritto, come italiani, e chi dice come chi dice, chi di dire quello che vogliono. Per cui beh, rappresentano anche il Vaticano, rappresentano anche uno Stato straniero, rappresentano anche uno Stato straniero, rappresentano anche uno Stato straniero, cioè uno Stato straniero, uno Stato straniero, emissari di uno Stato straniero, emissari di uno Stato straniero, emissari di uno Stato straniero, emissari di uno Stato straniero. Pensa che bella esempio di giornalismo hai fatto con Lavandino. Perché? Complimenti. Beh, straordinario. Complimenti. Un racconto, non è giornalismo, lascia perdere il giornalismo. Un racconto di vita reale. E tu vuoi chiudere la bocca a gente io che non voglio chiudere... di parlare come te? E chi ha ma detto? Chi ha detto che voglio ma chiudere la bocca? Chi ha detto? Ma va in parte. Marco, vai, ma chi ha detto che voglio chiudere la bocca? Chi ha detto? Ma chi ha detto? Ma lascia perdere il giornalismo che non è manco un mestiere tuo. Ma chi ha detto che voglio chiudere la bocca? Tu l'impianti di voler chiudere la bocca agli altri. Ma chi l'ha detto? Sei? Ma nessuno ha detto chi che lui non tu? Può parlare, Bagnasco non può parlare. Soprattutto noi siamo liberi di giudicare le cose che dice. Vedi chi che non ascolti tu? nemmeno ascolti. Vabbè. Come me. Facciamolo parlare, dai. Facciamolo parlare. Un buffone. Facciamolo fai parlare. Fai il comico. Allora Marco, è bellissimo, Marco, bravissimo a fare il comico. Ruini fallo, e Bagnasco fallo, possono dire la persona niente, che hai presente, vicino. Fai il comico. Ruini fallo, e Bagnasco posso. Sei bravo. Non c'è niente da fare. Non sono dei niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente fai da fare. Tu il va bene, abbiamo capito. Ruini e Bagnasco possono dire quello che vogliono per me. Possono bene, dire quello che vogliono. Tu li prendi per il culo tutti quanti. Ah, beh, sì, sono padrone di pigliarli certo, per il culo, esatto, certo, sì. Sei un buffone, essendo un buffone di corte. Guarda, se tu se i tuoi idoli, se i tuoi idoli sono Ruini e Bagnasco, se i tuoi idoli, se i tuoi punti di riferimento, se i tuoi punti di riferimento sono Ruini e Bagnasco, è un problema tuo. Non sono i miei punti di riferimento. Non sono i miei punti di riferimento. Io voglio che in una c'è la libertà in Italia di dire quello che vuole. Beh, certo, questo ci mancherebbe altro. E prende per il culo la gente che non sa nulla, è ridicolo. Tu sei un giornalista di bassa lega. Tutto di bassa qua. Lega va bene, d'accordo, ma quello è una opinione, una bravo, tua opinione. Sei un bravo comico. Un bravo comico, a parte che non sarà fatto un comico. No, a livello di Grillo. Chi? A livello, no, livello Grillo no, amico mio, Grillo è un livello nettamente superiore come comico. Beh, ti assicuro, io nettamente ti reputo a livello di Grillo. Caro Marco, io posso tranquillamente dire che il signor Ruini, lo pianta, lo pianta perché hai in mano il microfono di dire quello che vuoi. Dici, ragazzi, divertiamoci. Aspetta. Basta, chiuso, divertiamoci. E io mi diverto ascoltandovi. Fermo lì un attimo, fermo lì un secondo, Fermo lì un secondo, Marco, fermo. Crucia, hai rotto il cazzo con la zanzara. Noi vogliamo sentire la pubblicità. La pubblicità e il traffico. La zanzara. Allora Marco, ci sei? Marco? Marco? Attaccato questo, che ha fatto? Sto deficiente, chiama, no? E resta lì. Matteo Catania era quello della pipina e lavandino, vai Matteo. Qui sono, allora Giuseppe, qui sono. Dimmi. Allora, hai risolto il problema in questo modo, ma continua questa cosa, cioè continui a farla sulla... Certo, prima di tutto la pipì è sterile, quindi non è che è un qualcosa di cui scandalizzarsi o... No, ma infatti non c'è niente di... È Parenzo che si scandalizza per tutta questa cosa qua, ragazzi, che fanno parte della vita, che fanno parte della quotidianità. Ma è uno che fa la pipì Allora, ma certo ragazzi, che ma è assolutamente normale, assolutamente... Se uno a casa mia fa la pipì nel lavandino, scusami, sarò antico io, sarò il solito bacchetto, non lo giudico normale. Se un amico lo invito a casa, se scopre perché la prima volta che vieni a casa mia Cruciano, fai la pipì nel lavandino, sì, esci no. dal bagno e mi dici sai fatto la pipì nel lavandino, non lo giudico normale. Scusa, il Papa secondo te come fa la pipì? Il Papa non la farà nel lavandino? Ma come la fa? Come non la lo fa? So, la farà seduta. Adesso fra so. Poco sentiremo come la fa. A parte perché... che va insegnata ai maschietti a farla seduti. Allora perché... mi segnalano però, nel film di Bertolucci, che sicuramente sì. Parenzo ritiene un maestro, cioè Dreamers. Dreamers, come il protagonista dei ragazzi che fanno la sì molto Michael famoso film. Pitt piscia nel lavandino regolarmente ogni mattina proprio in virtù del Morning Glory. Cioè, quello è il cinema, riprendiamo ragazzi. Questo pezzetto, riprendiamo Dreamers, Bertolucci protagonista Michael. Beh sì, ma il cinema, vuol dire, non è solamente invenzione, cioè c'è la come dire, no, la trasposizione. Abbiamo imparato alle 20 e 23 alla Zanzara che è normale fare la pipì. No, è normale, può accadere. Vabbè, d'accordo. Può accadere. Bene, è normale. Matteo, dimmi. Perfetto. Giuseppe, poi volevo intervenire su un altro fatto, sempre importantissimo per le persone, ma sottovalutato. Se tu consideri quando vai a defecare la posizione seduto sulla tazza. Beh, sì, è vecchia questione questa qua della posizione. Allora? Sì, è molto deleteria perché non vai a sfruttare appieno la muscolatura addominale e gli organi. Sì, ma tu hai fatto uno studio su questo, Matteo? Certo, io lo applico. Io ti dico di più, a casa ho fatto togliere, diciamo, nel secondo bagno la tazza del water e ho fatto installare una turca. Sì. Addirittura hai fatto questa trasformazione qui perché era meglio avere una turca. Certo. Gli ospiti, se vogliono, vanno nel bagno principale, che non ci sono abituati. E noi, tutta la famiglia, ci rechiamo. Però è curiosa questa cosa. Tu praticamente, gli ospiti hanno la tazza del water normale. Tu invece certo. Hai fatto costruire una turca per la tua famiglia. Vanno tutti con la turca, stanno. Certo, perché ti spiego. Certo, e perché? Già Ippocrate diceva che la morte comincia dal colon. Quindi tutte le malattie derivano da una disbiosi intestinale. Quindi il fatto che uno non defeca completamente, sì. Le feci restano dentro l'intestino, sì. Tutto ciò aggrava tutte le problematiche, perché poi il flusso sanguigno viene inquinato dai residui del cibo, dall'acidificazione, sì, dell'acidificazione sì. Del sangue. Quindi dubbio. Una pratica che può sembrare la più naturale, la più semplice del mondo, implica un aspetto fondamentale del tuo benessere. No, questo mi cade un mito adesso, perché mi ha scritto un mio amico che non sento da anni, che si chiama si chiama Roberto, non dirò il cognome. Non dico il cognome, allora? Non dico il cognome. Oddio, io faccio sempre pipì nel lavandino. Cioè, tu hai degli... guarda che... Ma scusate, cioè, io ragazzi, ho frequentato per anni questo Roberto di Milano. Ma scusate, peraltro ragazzi, è anche un imprenditore. Ma se uno vuole fare la pipì sul lavandino... Ma è una roba normale. Ma che gente... Per esempio, sotto la doccia, vuole anche il cognome. Nella doccia, tu Roberto pisci De Angelis, tu pisci o no sotto la doccia? Roberto De Angelis. Tu pisci o no sotto la doccia, per esempio? Ti succede di pisciare sotto la doccia? Sta parlando con me? Sì, con te. Pisci sotto la doccia o no? Lei sta parlando con me? Sì, con te. Sotto la doccia non ti succede? È una no? pratica che io lo faccio nei luoghi deputati. Ma che vuol dire nei luoghi deputati? Cioè, no, pisci sotto la doccia, sì o no? Domanda luoghi... ogni tanto ti succede o no? Lo faccio nei luoghi prescelti, cioè ai bordi delle strade. Cioè, sotto lo faccio la tua nel doccia, gabinetto. Sotto no? la tua doccia a casa, non ti succede mai di pisciare sotto la doccia. Bellissimo. No, liberarti insieme alla doccia. Che c'è quello scorrimento, quella cosa che senti sulla gamba che non sai bene. De Angelis, quella mistura di acqua che scende dalla doccia e anche pisci. Scusa Matteo, a te succederà, sei no? Sei proprio una persona, certo, guarda. È una cosa naturale, normale. Parenzo non è normale. No, è certo. Questa è questo evidente, certo, Parenzo guarda. Parenzo è un onanista, secondo me Parenzo è un onanista. No, onanista no, adesso. Fermi tutti. Ciao Matteo, ciao, devo sentire una persona, aspetta. I'm a real wild one. Hai visto, David, che Trump vuole incontrare il dittatore della Corea del Nord? Sì, ho visto, una puttanata mega galattica. Ma perché una puttanata, scusa? Perché è la solita cosa di quel parrucchino giallo, di quel personaggio. Parrucchino giallo, dai, quel su. Quel parrucchino miliardario giallo, incredibile, che speriamo non diventi uno degli uomini più potenti del mondo, insomma. Antonio? Sì, salve, come stai? Buonasera, sì, tutto bene. Senti una cosa, ma hai visto pure tu questa cosa di Trump che vuole incontrare Kim? Per me mi fa molto piacere, perché finalmente c'è qualcuno intelligente che capisce che bisogna cercare di parlare con Kim Jong-un, no? Perché solo così si può risolvere tanti problemi sulla pace, sul nucleare. Io penso sulla che pace. Trump sicuramente ce la farà. Io tra una decina di giorni andrò pure in America per fare cose. In America. Sicuramente io sostengo Trump. Sostieni Trump. Ecco, un incontro, ci manca solo l'incontro razzi Trump. Io considero lui il Berlusconi americano. Potresti portarlo tu direttamente o no? Questo adesso non credo, però non credo. Posso anticipare e magari presentarle su alcune cose. Io adesso agosto vado lì appunto a Pyongyang e sicuramente ne parlerò. Ragazzi, qui se vince il presidente dell'America a novembre, no, la Clinton, perché la Clinton che fanno moglie e marito, non è più una repubblica, ma è una una monarchia, perché passa potere dopo, come la Corea del Nord, passano il potere da una all'altra. Cioè tu dici se vince la Clinton è come in Corea del Nord. Ma che dici? Ma non si possono passare per delle follie inaudite? Lì c'è una democrazia che vota, dall'altra parte c'è un signore cicciottello grottesco che pensa di comandare con dei razzi atomici. Ma di chi parliamo? Quello è, vedi, è un uomo, un giovanotto moderno. Beh, moderno. Se vedi il taglio di capelli, sono come tanti giovani nostri italiani. Ma quali tanti giovani nostri? Adesso, il taglio di capelli di Kim Jong-un è come quello di tanti giovani italiani? Beh, no, ci sono tanti giovani che hanno una capigliatura pure così. Ma un po' di tempo fa ce l'aveva pure mio figlio così, pelate sopra le orecchie con tutti i capelli. Un omaggio al dittatore. Cioè, il tu taglio stai di dicendo, capelli in omaggio tuo al figlio dittatore. Era, aveva la stessa pettinatura di Kim Jong-un. Speriamo non il cervello. Alcuni anni fa ce l'avevo così, adesso invece cambia. Sai come sono questi giovani, cambiano di continuo. Allora, in Corea del Nord, a Pyongyang, ha portato questa novità di che? Gioventù. Ma ha fatto vedere addirittura se nel congresso si è anche congresso vestito da occidentale. Io lo vedo vestito sempre allo stesso modo, con sta tunica su una specie di palandrana. No, sembra un Playmobil, dai, uno di quei soldati di Playmobil, dei Lego. Vestito proprio tipo europeo, ecco. Anzi, devo vedere di portare un sarto abruzzese e di fargli fare qualche vestito. Pure la marchetta abruzzese. Cioè, vuoi fare dei vestiti a Kim Jong-un, al dittatore? Senti, ma Lorenzo, vogliamo fare una domanda su un argomento di cui hai parlato pure te spesso negli ultimi giorni, che è il TTIP, no? Che cos'è il TTIP? Che cos'è? Ma che dice Parenzo? Che dice TTIP? Io pensavo che era il tip-tap, il pallo... Ma lei non è nella commissione esteri, scusi? Sì. Ecco, quindi mica non facciamo l'ultimo tip-tap. No, quindi saprà spiegarci con parole anche effettivamente molto semplici che cos'è il TTIP. E che vuol dire? Il Transatlantic Trade and Investment Partnership. Cioè sai che cos'è questa roba qua? Scriviti pezzo di carta T come Torino, T come Torino, I come Imola, P come Pirla. T-T-I-P. T-T-I-P. Sì, ma non sai che significa. Ma cos'è? Beh, certo, ci sono tante sigole che qui ognuno fanno per accorciare, ci mancherebbe, però uno dopo deve leggere quello che è principalmente la cosa, no? Tanta gente lo sa, non è che solo io non lo so. Sì, questo TTIP, tu non sai che cos'è? Io sono la stessa cosa, se vi dico qualche cosa in speech dice, sicuramente non lo sapete. Cioè, il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti. Ma che cos'è? In una parola, cos'è? Ma Parenzo è fissato con sto TTIP da un po' di tempo. Ma questo TTIP, ma Parenzo è fissato di tante cazzate. Che cazzo? Ma è una roba fondamentale del rapporto con gli Stati Uniti sul commercio. Davide, a me mi fa piacere. Davide. Ma che te ne frega a te, infatti? Il mutuo è pagato, che ti frega il TTIP? E certo. Vabbè, ma ciao, sì, ciao. Buttiamola tutta in farsa come sempre. Ma chi se ne frega, dai. Luciani, ma va tocca! La zanzara. Intervengo solo per dire che io piscio nel lavandino da circa un mese e mezzo. Piscio solo nel lavandino. E questo è importante, eh? Ci rassicura. Questo è molto importante, questo è molto importante. Intervengo solo per dire, capito? Cambia di mente. A grande richiesta, tipi da zanzara, vai! Tipi da zanzara. Rosario da Roma, vai Rosario. È pronto, buonasera. Dimmi, io riguardo, guardi, io sono molto arrabbiato con lei. Sì, vabbè, quello è abbastanza normale, non mi stupisce. Io pretendo le sue scuse perché io sono un artista. Questo mi pare un po' troppo, anche perché non so, no, per quale motivo. Infatti, guardi, io sono un artista, ho 48 anni. Sì. In gravi condizioni economiche e continuo a fare l'artista. Mi sentirei un parassita a chiedere soldi a mio padre a 47 anni. Mi sentirei un parassita. Non può mettersi in questo, in questa ottica, vabbè, allora perché l'artista, le ripeto, è una missione. Quindi lei ha il mio numero di telefono, io pretendo le scuse da lei. Ma quali scuse? Ma quando mai? Io non ho offeso nessuno, per carità, ma assolutamente. Vabbè, figuriamoci se chiedo scuse in nome di chi? Non ho capito, in nome di chi? Lei rappresenta chi? Gli artisti? Io dovrei chiedere scusa per che cosa? Perché io ho avuto una ditta individuale, ho fatto lezioni di chitarra, suono meglio di Jimi Hendrix e disegno meglio di Leonardo da Vinci. Adesso, mio. Rosario, ma chi, per ma carità, ma che tu sei meglio di Jimi Hendrix disegni meglio di Leonardo da Vinci. Io chiedo anche un confronto a questo punto, quindi ho visto che fa lo sono morti. Che vuole, scusa, un confronto? Forse lei è invidioso. Ma invidioso di chi, scusi? Di chi ha talento. Io sono invidioso di chi Senta, ha talento. Senta, professore, non volevo dire che intervieni tu perché prima hai dato ragione a lui. Io stavo anche per seguirla all'inizio del ragionamento, però allorquando mi chiama in causa un signore come Jimi Hendrix dicendo che lei è meglio, faccio fatica a seguirla. Io sono stato considerato da Franco Sarra, che è il batterista di Vasco Rossi. Sì, ma per carità, assolutamente. Fatevi mantenere dai genitori fino a 70 assolutamente anni. Assolutamente sì, perché sì, bravo, fatevi mantenere fino a 70 anni. È un problema dell'artista, signor Cruciani, è un problema dell'artista. Senti, a Jimi Hendrix e a Piazza Navona, a Jimi Hendrix. E vi dico, artisti, non vergognatevi. Mi fa impazzire anche lui, era partito bene, poi dici io sono meglio di Jimi Hendrix, ma che dice a me? Ma non mi ha di sgozzamento. Chi dico, sgozzamento, è l'Isis, e quell'altro Antinori che denuncia l'infermiera che è di lì. Ma ragazzi miei, che mondo è? Che mondo ma è? Io che sono mondo stato pure in America, ma che cazzo, io sono stato anche a Los Angeles, hai capito? Io sono stato a Cuneo e alla Dispoli. E ho rischiato pure la vita. E come fai a essere meglio di Jimi Hendrix? Scusa, spiegami. La natura, dici? Certo. Vabbè, ma perché allora non sei diventato come Jimi Hendrix? Perché a me non interessa essere Jimi Hendrix, lui mi ispira. Ma io faccio le cose che decido io di fare. Ho studiato Schoenberg, Gaslini. Io ho insegnato, ho avuto classi addirittura con 32 persone, hai capito? Tipi da zanzara. Grandissimo il Jimi Hendrix De Noantri, Rosario da Roma. Andiamo a Varese, Alberto, vai. Mi rivolgo al consiglio di amministrazione della società Sole 24 Ore, di cui sono azionista fin dalla prima ora. Bene. E rivolgo un rivolgiti. A questo punto un appello al consiglio di sospendere la trasmissione alla Zanzara. Già fatto un sacco di persone l'hanno già fatto. Sì, però lo faccia a luglio andiamo in vacanza. Posso terminare? Allora, sì, Alberto, prego. È stato già fatto più volte e purtroppo non è andato per iscritto, sarò uno dei tanti. Ma lei l'ha già fatto pure lei, se non mi ricordo male. Mi lasci parlare. Ma è stato già fatto, è stato. Se questo è il modo di creare valore a una società, questo non lo è. Questo è creare un sacco di letame. Beh, hai detto quello che pensi, bene. Credo che voi dobbiate essere buttati fuori, appedate nel sedere. No, nel culo, perché nel sedere? Nel culo. Nel sedere. È meglio, funziona, suona meglio nel culo. State toccando il fondo. Le dico, le do un consiglio, scriva nel culo, funziona meglio. Se lei dice appedate nel culo. Tu non fare troppo funziona meglio nel culo, pedate nel contratti sotto il sole 24 ma vieni pure ore. Che cazzo me ne frega conoscere con in mano le azioni di questa società, ma non me ne frega nulla, amico mio, nulla, zero di quello tu che puoi fare, stai tu approfittando, ma non me ne frega niente di quello che fai tu, presentati sotto questa radio, ma sì, va bene, ecco, Alberto, presentati sotto, siete una massa di coglioni, invece tu sei un genio, siete dei coglioni, siete, posso chiedere dei personaggi squallidi, Alberto, usate delle grandissime, scusi, Alberto, volgarità, per Alberto, tirare avanti per far cassetta. Aspetta, è ora di finire. Aspetta, Alberto. Sì. Alberto, scusi. Utilizza la parola Parenzo. Pedate nel culo, però non pedate nel sedere. Ti consiglio questa cosa qua. Quando fai il tuo esposto, le tue carte bollate. Ma non continuare con questa. Quando tenenza. Tu utilizzi le tue carte tu bollate. Alberto, sei un demente, sicuramente Alberto, sono un demente. Scusi. Un personaggio come te, ma come cavolo si fa a arrivare a questo punto? Quando scrive la lettera nella vita. Io mi chiedo come, nella vita succede, non nella ne vita. Avete colpa, voi non ne avete colpa, no, chi ha messo colpa lì? Abbiamo. No, dovete chi ci ha messo essere lì? Rimossi. Sì, sì, ci hanno già provato diverse persone. Posso chiedere questo? Vedremo chi la vincerà. Quando scrive la sì. Giusto, quando scrive la lettera, quando diritto dire la mia, ma sì, ma puoi dire quello che vuoi. Quando scrive la lettera, può per cortesia datarla dal primo di luglio, perché così vado al mare prima. Però la dati dal primo luglio, se può. Tu non fare sì. troppo. No, ma non sarebbe. Ti ha chiesto un favore. Già che deve chiedere la chiusura, lo chieda non da settembre, ma dal primo di luglio, per cortesia. Maleducazione. Adesso puoi anche chiedere un favore a uno che ti vuole cacciare. È incredibile. Non ho niente da dire. Perché un appello alla rivolta al consiglio d'amministrazione. Va bene, bravo, rivolgi da chi ti pare, benissimo. Fai una carta bollata, scrivi, ti ripeto, scrivi cacci nel culo, non nel sedere, che è più efficace. E poi tanti auguri, ti abbraccio fortissimo, arrivederci. Allora, nei giorni scorsi è uscita una notizia: primo trapianto di pene negli Stati Uniti. Ecco, immaginavo, temevo. Grande successo: dopo un'amputazione dell'organo per tumore, il 64enne presto potrà tornare ad avere erezioni, cosa fondamentale perché riguarda un sacco di persone che hanno problemi gravi, un po' di persone che hanno avuto problemi gravi, soprattutto negli Stati Uniti, per esempio ex militari o persone che hanno avuto grandi traumi, incidenti stradali, eccetera, eccetera. Abbiamo un esperto di queste cose che è il dottor Jamal Salih, già ospite di questa grandissima trasmissione. Dottore, nato a Gerico, messinese d'adozione, buonasera. Salve, buonasera, buonasera Cruciani. Allora, buonasera, caro dottor Jamal. Vedi che bello che dice Cruciani. Cruciani. Molto bello. Ma in realtà è messinese, è italiano ormai, non è nato là in Cruciani parte. È incarnazione del diavolo. Ma non Cruciani. È vero. Assolutamente no. Esatto, bravo. E mangiatore di maiale, non di kebab, signor Cruciani. Una precisazione. Lei, per esempio, a lei succede di fare, so che è una cosa un po' sgradevole, di fare la pipì mentre fa la doccia, sotto la doccia? Beh, può capitare, perché può capitare. No? Parenzo, ma queste anche cose. Perché comunque il rumore dell'acqua, bravo, questo bisogna saperlo. Sì, questo d'accordo, richiama, cioè, richiama, non c'è dubbio. Ti ricorda, stimola, diciamo, stimola fare, anche, stimola, dico, no? In stimola. Maniera. E dunque, diciamo, è vero che tante persone che hanno difficoltà, noi le consigliamo di aprire il rubinetto. Sì, questa è una vecchia tecnica. Sì, infatti io in genere banale, però così. Funziona sempre, no? Lei dice, funziona sempre. Sì, diciamo, da quell'inizio dà un po' di tranquillità alla persona, per cui diventa. E invece quelli che ci hanno chiamato un sacco di persone che lo fanno anche nel lavandino, perché questo è veramente non capisco per quale ragione fare il lavandino. Non è che no, a Gerico c'è il famoso morning, capito, glory, cioè l'erezione mattutina impedisce alle persone di farla in maniera normale, dunque lo fanno nel lavandino. Questo ci hanno raccontato. Vabbè, basta avere un po' di pazienza. Bravo, è quello che dico anch'io. E poi l'erezione, anche perché comunque una persona che ha l'erezione abbastanza rigida rischia di farlo in faccia piuttosto che nel lavandino. Questo anche è vero. Ma io mi chiedo come mai un talento simile non è tra i columnist del Sole 24 Ore. Ma è stranissimo. Sì, professor. Dottor Jamal Salih dovrebbe avere una rubrica fissa, dovrebbe avere, no? Senta, professore, lei sarebbe in grado, essendo chirurgo, di fare un trapianto pure lei o no? Di pene parliamo? Sì, beh, certo, beh, certo che cosa vuole, ma in questa trasmissione ma ce lo chiede pure. Tecnicamente è fattibile, assolutamente fattibile. Presenta ovviamente le stesse problematiche del trapianto di qualsiasi altro organo del corpo. Ecco, però si potrebbe arrivare a un paradosso che io mi voglio far trapiantare con il pene lungo 25 centimetri. Cioè, che ne so, si potrebbe arrivare a questa famiglia. Prima di tutto deve trovare un donatore. Sì, d'accordo. Mettiamo che io trovi un donatore oppure prendo il pene da un morto. C'è quello di Mercù che è uguale, morto, uguale. Si può fare secondo lei? Ma tecnicamente si può fare, però calcola che comunque prima di tutto bisogna partire da vari fattori. Prima di tutto la compatibilità tissutale tra donatore e ricevente. Ma lei sarebbe in grado di fare un'operazione del genere se ci fossero tutte le compatibilità? Tecnicamente ci vuole una equip completa, ma è fattibile. Cioè è fattibile sostituire un pene con un altro? Assolutamente, tecnicamente è fattibile. Una cosa pazzesca. Vedi, Marco, c'è futuro anche per te. Vedi. Come, che ti posso dire, se tu prendi qualsiasi altro organo del corpo che già si fa da parecchi anni, ma è vero che è stato il primo trapianto mondiale questo qua dell'altro giorno in America? Questo è il terzo. Ah, per cui ci hanno raccontato una puttanata, il terzo trapianto. È deluso, Cruciani. È stato fatto in Cina nel 2006. E poi? Solo che allora praticamente chi lo aveva ricevuto, il pene nuovo, ha avuto una crisi psicologica, emotiva. C'è stato un rigetto, diciamo, c'è stato un rigetto. Con la moglie, no. Poi lui ha chiesto espressamente che gli venga riasportato. Mamma mia. Ed è stato riasportato. Questo nel 2006. Terribile. Poi? In Cina. Poi in Sudafrica nel 2014 è stato fatto, sì, diciamo alla fine del 2014, un altro trapianto. Sì, che è successo? E questo di cui parliamo è il primo in America. Il primo in America. Il primo nel mondo. Ah, ok, benissimo. Però io voglio chiedere una cosa, professore. Ma sì, se tu prendi il pene, quanto vale per esempio il pene di Rocco Siffredi? Uno potrebbe dire, no, voglio il pene di Rocco Siffredi. Potrebbe valere qualcosa. Ma chi vuole? Ma di chi parli? Da, cioè, qui entriamo... Potrebbe avere un valore in teoria. Questo è un valore come un oggetto artistico di valore, come un oggetto di culto. Ma anche se uno se lo vuole far mettere. Vabbè, ma lasciamo perdere Rocco Siffredi. Se tu prendi il pene, che ne so, uno che non ha 60 anni vuole prendere uno di 30, che cambia? Ma non cambia in teoria non cambia granché, se non che prende un pene praticamente più nuovo, tra virgolettine, e sicuramente che funziona meglio. E invece al contrario se uno prende, se un trentenne che gli è successo qualcosa di gravissimo, sicuramente se il corpo recipiente è un corpo più giovanile, più sano, probabilmente il pene nuovo vecchio o di provenienza di un paziente, di una persona vecchia, comunque si comporterà in una maniera migliore. Cioè, capito, senso, quando tu prendi un pezzo di ricambio, magari di una macchina, sono estasiato, una macchina nuova, in teoria comincia a funzionare meglio, perché ma secondo lei si arriverà veramente al fatto che uno si fa, dice, voglio un pene più efficiente, voglio fare il trapianto nella si arriverà o no secondo lei? L'evoluzione della medicina è talmente grande che alla fine noi non ci meravigliamo più di nulla. Questo non c'è dubbio. L'erezione è la stessa, o no, oppure non si arriverà mai? Io qui ho dei dubbi sul fatto che il tessuto erettile possa in qualche maniera rifunzionare. Approfondiremo. E di che c'è bisogno? Io credo che in un caso del genere, veramente non l'ho capito bene se lo hanno fatto oppure no, gli americani. Di che c'è bisogno per avere? Però che sicuramente ad un certo punto bisogna mettere un impianto. Ah, una pompetta, una specie di pompetta. Per farlo funzionare. Ah, ho capito. Perché già il fatto che riesca, diciamo, ad essere vascolarizzato, per cui che arrivi il sangue e si mantenga in vita. Alla fine, insomma, meglio tenersi quello proprio, meglio tenersi quello proprio, dici, meglio tenersi, su questo non c'è dubbio, meglio tenersi quello proprio. Beh, dipende dal caso. Professore, dobbiamo chiudere, però. a presto. Grazie tanti, Jamal Salih, un mito, una leggenda, ragazzi. Grugiani. Ci sentiamo domani, Ciao Grugiani, ciao. Viva il magico mondo della zanzara. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.